e piazzò una microspia nel cantiere, in un cantiere alle porte di Milano, e sentì alcuni di questi presunti mafiosi dire: abbiamo pagato per avere il via libera dall'assessorato, ho un contatto con il sindaco, questo, quello, eccetera. Alcune cose erano millanterie, ma altre robe vennero trovate come vere, e comunque era la primissima volta che la mafia arrivava a Milano, pagava le tangenti e entrava nell'edilizia. Cioè, questo era già successo ovviamente negli anni 60, negli anni 70, ma era la prima volta che questa roba veniva documentata attraverso una microspia dei carabinieri. È stata un'inchiesta che ha fatto epoca, ha fatto traballare una giunta e ha aperto poi la via alla stagione di Tangentopoli. È stata una specie di preistoria di Tangentopoli. Questa dunque è la storia. Compiamo un passo indietro, seguendo le linee tracciate da Piero Colaprico. Il boss Giuseppe Doto, più conosciuto come Joe Adonis, è uno dei primi mafiosi a insediarsi a Milano. Doto è cresciuto alla scuola di Don Vito Genovese in America durante il proibizionismo. Lucky Luciano esce di scena nel 1962. Doto prende la sua eredità. Bisc, nightclub, estorsioni, traffico di stupefacenti e preziosi. Mentre la mafia si insedia a Milano, balzano alle cronache cittadine le imprese di giovani criminali. 25 settembre 1967. La banda di Pietro Cavallero e Sante Notar Nicola ingaggia uno scontro a fuoco con la polizia. 5 morti, 21 feriti. È la Milano calibro 9, quella raccontata nel celebre film di Carlo Lizzani. Il 3 ottobre 1967 vengono catturati Cavallero e Notar Nicola. Saranno processati nel giugno 1968. Cavallero e Notar Nicola in carcere parlano di comunismo e rivoluzione. E queste sono le testimonianze di quello che accade il 25 settembre 1967. Vedo una 1100 scura che va sulle rotaie del tram. Sono un tratto, vedo la 2006 Alfa e un'altra Giulia dietro. La 2006 è la polizia. La polizia, sì. Ad un tratto i banditi si lateralmente tirano fuori due pistole e sparano all'impazzata. E ho visto appunto in un certo momento tutto il mitra fuori della macchina che sparava. Allora mi sono abbassato e ho fatto tempo di sguagliarmela. E poi mi sono passata prima la macchina dei ladri, insomma, prima che arrivasse la polizia. È arrivato questo colpo qui. Guardi, mi trovavo dentro quel caffè là. Ho sentito questa sparatoria e sono corso fuori subito. Le macchine stavano passando ma non le ho intraviste. Ho soccorso il ragazzo lì, ma ho visto che non c'era niente da fare. L'ho assistito finché è arrivato l'autolitiga, ha preso un colpo alla testa. Siamo negli anni 70, cambiano gli interessi criminali, cavalli, bische clandestine, rapine e soprattutto un fiume di droga. Nel 1970 Milano è ormai una base operativa dei siciliani. A giugno si tiene un'importante riunione con Gerlando Alberti, Giuseppe Calderone, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti, Totò Riina e Salvatore Cicchiteddu Greco. Nel corso degli anni 70 sono attivi in Lombardia Gerlando Alberti, Gaetano Carollo, i fratelli fidanzati. Nel 1972 arriva il boss dei boss, Luciano Liggio. Tradito da un'intercettazione telefonica, Liggio viene arrestato il 16 maggio 1974 in via Ripamonti. La mafia avvia la stagione dei sequestri di persona. Tra le sue vittime più illustri gli imprenditori Pietro Torielli e Luigi Rossi di Montelera. Come ricorda Achille Serra, ai tempi capo della squadra mobile di Milano, attuale prefetto di Roma. Sequestri di persona che misero in ginocchio Milano. Furono gli anni delle grandi rapine, nessuno più andava in un ristorante, nessuno più andava al cinema. E furono gli anni dei bodyguard, gli anni in cui ciascun imprenditore non usciva di casa se non era con due guardie del corpo. Nella metà degli anni 70 si registra l'avanzata delle cosche al nord, certamente favorita dall'invio al confino di quasi 400 uomini, che oltre ai sequestri si dedicarono alle rapine, al contrabbando di tabacchi, stupefacenti e pietre preziose

Poco dopo la sua liberazione, Emanuela Trapani descrive così il suo rapitore. Che tipo è Valenzasca? Beh, tipo... Ma io lo ritengo anche un incosciente, un duro. Una persona che non ha paura di nessuno, come dice lui. Poi, per me, non so se è vero o no. Comunque lui sostiene che non ha paura di nessuno. Il 15 febbraio 1977 Renato Valanzasca, stanco e ferito, viene nuovamente arrestato nel suo covo. Mi dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi? Sono innamoratissimo di Roma. La ragazza chi è? La ragazza che stava qui? C'era una ragazza, non me ne ero accorto. Arrestato più volte, Renato Valanzasca riesce ad evadere e sfida la polizia come il giorno in cui chiama a Radio Popolare di Milano e si fa intervistare da un giornalista. Pronto? Pronto? Come si chiama? Valanzasca Renato. Quanti anni ha? 27. La sua banda sta incutendo terrore nella città di Milano. La gente ha paura e dice che siete una banda di drogati. Ma è vero che lei può girare impunemente per Milano? Diciamo che sì, sono dovuto, cioè c'è un qualcosa da fare che mi sembra che urla la mia presenza. Entro in Milano e riesco. Si sente isolato? No, nonostante quello che si dica, cioè, mi sento che la gente magari se non mi dice quello che pensa solamente perché ho paura. Nel 1999 esce la biografia di Renato Valanzasca, scritta in collaborazione con il giornalista di Repubblica Carlo Bonini. Un uomo ormai prigioniero del suo mito, oltre che della galera a cui è stato condannato, e che questa diciamo doppia prigionia gli riservi un presente e un futuro probabilmente molto diverso da quello che avrebbe avuto se fosse stato un bandito un po' meno famoso, e se fosse stato un bandito che avesse coltivato in modo diverso il suo mito. Quello che voglio dire è che oggi Valanzasca è forse l'unico dei grandi banditi dell'Italia degli anni 70 che ancora non solo sta scontando la sua pena in carcere, ma anche che non ha goduto di nessuno dei benefici, dico pure altri personaggi di spicco di quel tempo hanno goduto. Oggi Valanzasca continua a scontare la sua pena in un regime praticamente di isolamento totale, soltanto in tempi recentissimi ha ottenuto due permessi per andare a trovare questa anziana madre ammalata. Ma insomma continua ad essere detenuto in braccio di massima sicurezza. Per questo dico un uomo prigioniero, due volte prigioniero. C'è chi resta in carcere come Renato Valanzasca, chi collabora con la giustizia come Angelo e Paminonda, detto il Tebano, chi viene ucciso in un penitenziario come il boss Francis Turatello. Quello di Faccia d'Angelo è un omicidio efferato, come ricorda il prefetto di Roma Achille Serra. Non l'ho mai capito se fu uno sgarro in carcere, se fu un conto da regolare della malavita milanese. Il modo con cui fu ucciso fu di una brutalità autentica, perché Pasquale Barra, se non erro, detto o animale, dopo averlo squartato gli mangiò le budella. E questo è un atto di sfregio che non si fa nel codice, non è previsto nel codice della malavita, se non per uno sgarro di forte spessore. Quale fosse non l'ho mai capito. Sul finire degli anni Ottanta, usciti di scena Turatello ed Epaminonda, le attività illecite tornano nelle mani dei clan tradizionali. Intanto emerge l'infiltrazione dell'Ndrangheta a Milano e provincia. Il 16 maggio 1990 viene arrestato Tony Carollo, figlio del vecchio boss Gaetano. L'indagine Duomo Connection prova il flusso di tangenti versate da uomini del clan dei Madonia a politici in cambio di appalti. Nel 1993, forze dell'ordine e magistratura azzerano numerose attività delle cosche criminali con le operazioni Wall Street, Countdown, Okatuka, Nord-Sud, Belgio e Fine.